Cosa stiamo ascoltando, fratello? The Final Countdown. Artista? Il folclorista. Dal mondo normale siamo lontani. Sulle mani. Many things dust of faded in the rain. Without a reason, baby, so I keep losing the way. You see me walking every day, my feelings rolling down the lane. D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. D'Agostino. Non si ripete mai, ma è bello ripeterlo. Oggi è

λαγαρέστο μπουτί. Οι ομάρα βουνε και λαγαρέζε σε δί. Είναι κι ούβο σο και λαγαρέζε σε δί. Να κανεύουμε κανένα νονέζε σε δί. Νου τζίρε μπάσα μπάσα νονέζε σε δί. Να βοσιά μικα μικα νονέζε σε δί. Είναι κι ούβο σο και λαγαρέστο μπουτί. Dal silenzio delle cose non dette, al silenzio delle cose taciute, dalle promesse regalate telepaticamente. Lisa mute, scegli il momento per non parlare, risparmia il piatto e lasciati capire. So che ti vorrei sapere di più di quanto non so.

distanziamo ci porta lontano. Lontano, lontano. Ogni giorno ci gira intorno. Ci gira intorno. Questo è il cammino. Questo è un buongiorno. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il disco anziano di oggi è... I will parade you down the high street. You've got the attraction, you've got the pulling power. Walk my little doggy, walk my little sex dwarf. We can make a scene, we'll be a team. Making the headline sounds like a dream. When we hit the floor, you just watch them move aside. We will take them for a ride of rides. They all love your miniature ways. You know what they say about small boys. For my little sex dwarf to match the gold rolls on my dumb chauffeur. We'll all look so good, we'll knock them cold. Knocking them cold in black and gold. We can have playtime in my little playroom. Disco dollies, my sex dwarf and my dumb chauffeur. È ora di finirla, sigla. È finita. Già, se n'è andata sta puntata. Non mi faccio sta cantata. C'è già sotto il mio tassista. Sono Gigi il folclorista. Non ti devi rattrista. Sto cammino resta qua. Ma se vuoi che io ritorni, tu fai bravo tutti i giorni. Ogni giorno io t'aspetto. Sono Gigi, l'ho già detto. Mo la sigla va a sfumare. Perché devo respirare.